24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Raffaella Calandra. In primo piano in questa edizione di 24 ore in Europa, le previsioni della BCE sulla ripresa nell'Eurozona, la riforma del mercato del lavoro in Italia, le preoccupazioni per Portogallo e Spagna, ma anche la proposta dell'Unione Europea di semplificare le immatricolazioni di auto tra i vari paesi. L'economia soffre ancora rischi al ribasso, una ripresa moderata è prevista per il 2012. I think that given the present conditions for... Formula questa previsione il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, che state ascoltando in sottofondo. Per Draghi è altamente prematuro discutere della exit strategy dalle misure straordinarie varate dalla BCE negli scorsi mesi, così come chiesto da alcuni componenti del board, in primis la Germania. Il lavoro con la cifra dei 17 milioni di disoccupati in tutta l'area euro è stato poi un altro tema toccato dal numero uno della BCE, secondo cui la flessibilità è concentrata sulla parte più giovane della popolazione e così va distribuita più equamente, ha detto Draghi. La BCE ha anche deciso di mantenere invariato all'1% il tasso di riferimento principale di Eurolandia, così come era atteso. In Italia il governo ha presentato la sua riforma del mercato del lavoro, una riforma di rilievo storico, ha detto il premier Mario Monti, secondo cui questa riforma intende realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico. E il titolare del welfare, Elsa Fornero, ha spiegato che l'obiettivo è che diventi dominante il contratto a tempo indeterminato e sull'articolo 18 torna il reintegro per motivi economici. È vero che poi alcune parti sociali hanno cambiato idea rispetto a un accordo che è stato espresso anche con un verbale. È legittimo cambiare idea e nessuno vuole accusare nessuno sul cambiamento di idee. Noi però continuiamo a guardare con fiducia al fatto che le parti sociali riusciranno a vedere ciò che di buono c'è in questa riforma. Andiamo ora in Portogallo. Il nostro debito è sostenibile, ha detto il ministro delle Finanze Vítor Caspar. In un'audizione al Parlamento ha aggiunto che il paese può fare affidamento sulla solidarietà europea e attraverso il commissario europeo per gli affari economici e monetari Olli Rehn, l'Europa conferma di essere pronta ad ulteriori aiuti per il Portogallo prima che Lisbona sia in grado di tornare a finanziarsi sul mercato. Dal punto di vista dell'Unione Europea, ha detto in un'intervista Olli Rehn, sarebbe saggio essere preparati all'eventualità che il Portogallo abbia bisogno di una sorta di ponte. Il commissario non ha però dato indicazioni sulla cifra dell'eventuale finanziamento. E i venti di crisi, ma soprattutto il risultato deludente dell'asta dei bond spagnoli, come la cautela della Federal Reserve sulle prospettive dell'economia americana, hanno pesato sulle borse europee. Banche e titoli industriali hanno zavorrato i listini europei. Le quotazioni sono state penalizzate dai nuovi timori sulla tenuta del debito dell'Eurozona, questa volta concentrati sul rischio Spagna, e dalle indicazioni arrivate dalla Federal Reserve. I commenti più positivi del previsto della Banca Centrale Statunitense, in particolare, sembrano escludere nuove emissioni di liquidità, prospettiva che il mercato ha scontato. A Piazza Affari il FTSE OSCE ha lasciato sul terreno il 2,43%. E il FTSE MIB il 2,42%. Tra i titoli ha limitato le perdite Telecom Italia, che ha chiuso in calo dell'1,32%. Le quotazioni hanno beneficiato della prospettiva, al momento soltanto teorica, di uno scorporo della rete che porterebbe nelle casse del gruppo 4 miliardi di euro. Tra i pochi titoli in controtendenza, Campari è salita dello 0,39%. Gli analisti guardano soprattutto alle potenzialità di Aperol per garantire una crescita sostenuta del business. Paolo Paronetto da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore. Parliamo ora di mercato dell'auto. Le prospettive in Europa per il 2012 non sono incoraggianti, anzi è previsto un ulteriore calo, il quinto consecutivo. Lo ha affermato Sergio Marchionne, amministratore delegato della Fiat, secondo cui quest'anno è prevista una flessione nella vendita dei veicoli commerciali del 3,5%, con una contrazione più marcata in Italia pari al 10%. E Marchionne ha parlato appunto anche della situazione italiana. Spetta al Paese decidere se vuole fare parte di questo progetto. Gli strumenti ci sono, la nostra volontà anche. Ora dipende solo dall'Italia, soprattutto dalle forze sociali, se metterli a frutto. Ancora a proposito di auto, l'Unione Europea vuole semplificare le procedure per le immatricolazioni tra uno Stato e l'altro. Ci sono troppi vincoli amministrativi per le immatricolazioni di auto tra stati diversi dell'Unione Europea. Si perde tempo nelle trafile burocratiche e si spendono soldi che si potrebbero invece risparmiare. Per questo, su proposta del vicepresidente dell'esecutivo comunitario e responsabile per l'industria, Antonio Tajani, la Commissione Europea ha intenzione di ridurre drasticamente il peso ingiustificato delle procedure amministrative per il passaggio di proprietà delle auto tra stati comunitari. Diventerà inoltre impossibile immatricolare in un altro paese dell'Unione i veicoli rubati. Oltre a eliminare le lunghezze, la semplificazione porterà anche a un risparmio di almeno 1,5 miliardi di euro l'anno per imprese, cittadini e le stesse autorità di immatricolazione. Ogni anno, tra uno Stato e l'altro, passano di proprietà circa 3,5 milioni di veicoli. In media ci vogliono 5 settimane, mentre il costo dell'operazione è di 400 euro. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora in Ungheria, dove il Parlamento approva una prima modifica dopo la procedura di infrazione avviata da Bruxelles. L'Ungheria di Orban fa un passo, seppure timido, verso l'Europa. Il Parlamento ungherese ha approvato una prima modifica di legge per adeguarsi alle richieste della Commissione europea, dopo le procedure di infrazione avviate contro il paese magiaro. La modifica revoca la facoltà data al Premier di avviare la destituzione del garante dei dati personali. Bruxelles aveva avviato 3 procedure di infrazione contro l'Ungheria. 2 di queste, sul garante dei dati personali e sul pensionamento obbligatorio dei giudici, sono arrivate al secondo grado di procedura, che ne prevede complessivamente 3. In caso di mancata risposta o risposta insufficiente alla Commissione, è previsto poi il ricorso dinanzi alla Corte Europea di Giustizia. La modifica approvata in questi giorni con il voto della maggioranza governativa risponde solo in parte alle richieste, in quanto non reintegra nell'incarico il garante dei istituito dal governo Orban. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il presidente slovacco Ivan Gasparovic ha nominato il nuovo governo monocolore formato dai socialdemocratici di Robert Fico, il vincitore assoluto delle elezioni parlamentari anticipate. Con il 44% dei voti, i socialdemocratici avranno la maggioranza di 83 seggi dei 150 in tutto. Parliamo ora degli stipendi dei parlamentari. Non è possibile fare una comparazione tra quelli degli italiani e quelli dei colleghi europei. Lo spiega la Commissione Giovannini nella lettera di dimissioni arrivate proprio nel giorno della pubblicazione del rapporto. La commissione era nata per l'accertamento, appunto, dei costi della politica. Così il presidente Enrico Giovannini, presidente anche dell'Istat, intervistato da Sebastiano Barisoni. Non ci siamo arresi, abbiamo semplicemente stabilito, attraverso appunto vari mesi di lavoro, che in primo luogo la legge ipotizzava una quasi perfetta corrispondenza tra l'organizzazione dello Stato italiano e l'organizzazione di altri 6 paesi europei. Tra i 30 enti, soltanto 9 di questi sono presenti in tutti gli altri 6 paesi che abbiamo considerato, cioè Francia, Germania, Spagna, Olanda, Belgio, Austria. Secondo aspetto, anche per quelle nove istituzioni per cui teoricamente avremmo potuto fare il calcolo, abbiamo ricevuto pochi dati. Ad esempio, alcuni paesi hanno posto la privacy per non inviare i dati. Yahoo riduce la propria forza lavoro di 2.000 unità, cioè il 14% del totale, lo comunica la società in una nota, sottolineando che il taglio si tradurrà in risparmi annuali per 375 milioni di dollari. Ed infine il nostro appuntamento quotidiano con l'agenda digitale. Per risparmiare denaro e migliorare i servizi che lo Stato eroga a cittadini e imprese a fronte delle tasse pagate, uno dei sistemi più efficaci è digitalizzare la pubblica amministrazione. Non è certo semplice, anche perché il rischio è trasformare in bit la burocrazia. Il capitolo dell'agenda digitale intitolato e-government, governo digitale, è quindi una straordinaria occasione anche per riorganizzare, semplificandola, la macchina statale, facendola entrare in quella cultura della trasparenza, i tecnici li chiamano open data, tipici della rete della new economy. Open source, interoperabilità, cioè sistemi che si parlano tra di loro, e riuso del software dovrebbero essere altri tasselli. Che senso ha, ad esempio, che 8.000 comuni abbiano diversi applicativi per fare sostanzialmente la stessa cosa? Si inizia almeno a livello provinciale o regionale a mettersi d'accordo. Le piattaforme basate sul cloud computing dovrebbero poi spingere verso grandi sistemi nazionali che servano tutta la pubblica amministrazione, centrale e locale, con grandi benefici grazie all'economia di scala. In alcuni settori, pensate al fisco, la dematerializzazione è già realtà, ma l'obiettivo nel medio periodo è che le procedure digitali siano la regola della pubblica amministrazione e quelle di carta un'eccezione. Alcuni di questi processi richiederanno anni, altri sono già avviati e basterebbero per la verità solo i decreti attuativi, come per la carta d'identità elettronica. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 24 Ore in Europa termina qui. Un saluto a tutti voi da Raffaella Calandra. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.